Il giardino. Una principessa sta per venire qui, disse il leone. Come possiamo dimostrarle che siamo molto felici di averla con noi? Potremmo farle dei profondi inchini, suggerì l'ippopotamo. Ma è vero che non tutti abbiamo il fisico adatto. Potremmo tutti gridare forte, benvenuta, soggiunse l'elefante. Ma forse si spaventerebbe. Potremmo danzare, propose la giraffa. Ma il leone guardò l'ippopotamo, scosse la testa e tutti gli animali sospirarono. Allora l'uccellino marrone cinguettò timidamente. Non potremmo fare un giardino. Le principesse adorano i fiori. Tutti lo fissarono ammirati. Questa sì che è un'idea felice, disse il leone. Lo faremo insieme. Venne scelto con cura un luogo molto bello, ma il leone osservò che andava dissodato. Ci penso io, gridò l'ippopotamo. Pesterò la terra coi miei piedoni e con il mio grosso e pesante corpo finché diventerà fine e leggera. Benissimo, approvò il leone. Ora dobbiamo fare dei buchi per piantare i semi. Lo faccio io con gli aculei della mia schiena, si offrì il porcospino. Si arricciò tutto e cominciò a rotolare su e giù per il campo finché fu pieno di buchetti regolari. Benissimo, disse il leone. Ora pianteremo i semi. Tocca a me, disse la cavalletta. Sono veloce e leggera. Sorvolò saltellando la terra e in un batter d'occhio piantò tutti i semi. Benissimo, disse il leone. Ora bisogna annaffiare il giardino. Lasciate fare a me, esclamò l'elefante. Userò la proboscide. Andò al fiume, riempì bene la proboscide e la riversò sul giardino. Benissimo, disse il leone. E ora, come faremo a impedire alla scimmia di rovinarci tutto il giardino? Sarà mio compito. Farò io la guardia, propose la giraffa allungando il collo. Avrebbe voluto essere di aiuto, ma pareva che nessuno avesse bisogno di lei. Dopo un po', i semi cominciarono a crescere. Ma il leone, che si era recato a controllare i progressi del giardino, scosse la testa. Quante erbacce rovineranno tutto! Chi è capace di estirparle? Gli animali rimasero tutti zitti. L'ippopotamo si giustificò. I miei piedi sono troppo grossi. Rovinerei tutto. Le mie spine danneggerebbero le foglie, si scusò Porcospino. Le erbacce sono troppo pesanti per me, disse la cavalletta. La mia proboscide spezzerebbe gli steli, affermò l'elefante. Ho il collo troppo lungo e non posso chinarmi tanto, si lagnò la giraffa. Quei pigroni si girarono e se ne andarono. Allora l'uccellino marrone volò nel giardino. Con il suo minuscolo becco sradicò un'erbaccia e la gettò dietro una siepe. Le radici erano forti e spesso il becco gli doleva e dopo un po' anche le ali gli pesavano. Ma con pazienza, un giorno dopo l'altro, l'uccellino marrone ripulì il giardino finché non rimase una sola erbaccia. Intanto una miriade di fiori rossi, azzurri e gialli mostrava graziosamente la corolla dai lunghi e sottili steli. Il giorno dopo la giraffa che era di guardia annunciò: arriva la principessa! La vedo! Gli animali si riunirono tutti nel giardino e si meravigliarono di trovarlo così in ordine. Forse le erbacce si sono seccate, disse il leone, mentre l'uccellino marrone appollaiato su un albero taceva. La principessa sorrise. Non ho mai visto un giardino così bello, disse. Dovete aver lavorato sodo. È vero, abbiamo lavorato sodo. Risposero in coro gli animali pieni di sé e sorridendo. Chi di voi è così gentile da cogliere qualche bel fiore per me? Chiese la principessa. Il leone si fece avanti. Io ho dato tutte le istruzioni, perciò tocca a me. Però io ho arato la terra, protestò l'ippopotamo. E io ho fatto i buchi per i semi, aggiunse Porcospino. E io ho piantato i semi, fece la cavalletta. Io ho annaffiato, disse l'elefante. Mentre io facevo la guardia, sottolineò la giraffa. La principessa sorrise. Chi ha tolto le erbacce? Chiese. Tutti rimasero zitti, poi... Nessuno, disse il leone. In quel momento la principessa scorse due occhietti brillanti e un sottile becco che facevano capolino di tra le foglie di un albero. L'hai fatto tu questo lavoro, uccellino marrone? E l'uccellino annuì. Allora tu coglierai i fiori per me, perché il tuo è stato il lavoro più duro e più lungo. L'uccellino marrone volò giù verso il giardino, poi con il suo becco sottile colse con garbo il più bel fiore e lo offrì alla principessa. Ne colse un altro e un altro ancora, fino a mettere insieme un bel mazzolino variegato. La principessa baciò la sua piccola testolina marrone e gli sorrise. Allora l'uccellino marrone cantò come non aveva mai fatto prima, finché il sole tramontò nel bel giardino degli animali.